Letture di Radio 24. Il metodo di letture delle note, chiamato do mobile o solfamizzazione, sviluppato dal compositore ungherese Zoltán Kodály e reso popolare dal musical Tutti insieme appassionatamente, ha le sue origini nel Medioevo. Ma in quanti conoscono ancora la scala musicale? In un articolo pubblicato sull'ultimo numero della rivista BBC Music Magazine, Rick Jones ne ripercorre la storia. Il sistema Do-Re-Mi è stato inventato dal monaco Guido d'Arezzo attorno all'anno 1000 come sistema efficace per memorizzare una melodia. Dal suo monastero benedettino a Pomposa, Guido d'Arezzo divenne noto per la sua abilità nel fare imparare i canti ai confratelli, in modo più veloce di quanto avesse fatto chiunque altro. Anche con la notazione lo si poteva fare, ma questa implicava tonalità fisse ed era legata alla capacità di leggere un testo. La bellezza del metodo Do-Re-Mi non sta soltanto nel cosiddetto Do mobile, ovvero il fatto che i suoni vengono indicati in base alla loro posizione nella scala, anziché in base alla loro altezza assoluta, ma anche nel suo utilizzo come mezzo orale. Non sai né leggere né scrivere? Non è un problema. Ma al giorno d'oggi, la scala musicale è ancora familiare come l'alfabeto? Ho deciso di testare la conoscenza di quello che in Inghilterra, fin dal XIX secolo, è noto come sistema tonale sol-fa o solmisazione e ho organizzato un sondaggio. In un mattino d'autunno dello scorso anno, io e mia figlia abbiamo piazzato un tavolino a Leicester Square a Londra con un cartello che diceva sondaggio musicale e abbiamo chiesto a 100 passanti di età, sesso e nazionalità diverse di rispondere alle stesse domande. 1. Siete in grado di completare la sequenza Do-Re-Mi? 2. Siete in grado di cantarla? 3. Siete in grado di cantare o di identificare qualcuna di queste melodie? Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Do, re, mi, do, re, mi, do, mi, fa, sol. Mi fa sol, sol la sol fa mi do, do sol do, do sol do. Do, re, mi, fa, sol, la. Fa, fa, mi, re, do, do, sol, sol, do, sol, do, re. La prima domanda metteva alla prova la familiarità, la seconda la musicalità, la terza serviva per verificare se l'intervistato era in grado di applicare la conoscenza a un codice. Questi i risultati. Su 100 passanti, 81 sono stati in grado di completare la sequenza Do-Re-Mi, 61 l'hanno saputa cantare, 12 hanno saputo rispondere alla terza domanda. Solo poche persone, forse una mezza dozzina, erano in grado di cantare mentalmente le canzoni, il che era impressionante. Il 5% degli intervistati erano francesi, spagnoli e italiani e hanno saputo cantare la scala anche all'indietro, così come avevano imparato a scuola. Meno del 10% è stato in grado di cantare anche il terzo brano, anche se è risultato più facile una volta capito di che canzone si trattasse. È la colonna sonora di EastEnders, una soap opera della BBC molto popolare in Inghilterra. Alcuni degli intervistati pensavano che lo scopo del test fosse quello di cantare il brano Do-Re-Mi dal film Tutti insieme appassionatamente, tratto dal musical di Rodgers e Hammersmith, ed è anche possibile che qualcuno conoscesse la scala solo per la scena dove Julie Andrews, per insegnare le note ai bambini, abbina ogni nota alla prima parola di una frase. Do, ti do qualcosa a te, re è il re che c'era un dì, mi è il mi per dire a me, fa la nota dopo. Probabilmente, quando ha descritto il fa come la nota dopo il mi, Hammersmith doveva essere a corto di idee. Il sondaggio che abbiamo effettuato a Leicester Square dimostra che il metodo di notazione inventato nell'undicesimo secolo è tutt'altro che sconosciuto. Magari solo pochi hanno la capacità di cantare le note in scala, e ancora meno sono quelli in grado di rielaborarle in nuove melodie, ma il metodo del do mobile è ancora popolare e fa parte delle conoscenze collettive che la maggior parte delle persone possiede. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Rick Jones, Facile come il Do Re Mi, dal numero di febbraio della rivista BBC Music Magazine. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di Faccia a Faccia, le inchieste, Dentro la Notizia e Gialli della Storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Alla fine, con l'accordo siglato martedì scorso, i taxisti hanno dimostrato che con la violenza e gli scioperi illegali si ottiene tutto. Questo almeno il commento di alcuni politici alla fine dei 6 giorni di protesta dei tassisti, spesso degenerati in violenza e aggressioni. Proteste nate dall'esasperazione dei tassisti per il lunghissimo tira e molla dei vari governi, che da anni continuano a rinviare una regolamentazione degli NCC, i noleggiatori con conducente. Il problema riguarda soprattutto il maggiore concorrente dei tassisti, quello che da qualche tempo sta mettendo in crisi i loro privilegi e monopoli, ovvero Uber, la multinazionale che tramite un'app manda un'auto con autista a prendere il cliente per accompagnarlo dove desidera. Comprensibile che coloro che per una licenza erano arrivati a pagare anche diverse centinaia di migliaia di euro non gradiscano la concorrenza di chi, come Uber, guadagna in Italia ma paga le tasse all'estero. Anche se c'è chi sospetta che quando i tassisti dichiarano di guadagnare poco più di 1000 euro al mese, forse non siano proprio in regola con il fisco. E per quanto riguarda le licenze, un guidatore di Uber intervistato da Roberto Rotunno per Il Riformista ha dichiarato: molte licenze NCC le hanno vendute gli stessi tassisti prima di prendere l'auto bianca. In pratica, prima ci hanno guadagnato. Ora vogliono che a quelle licenze si applichino limitazioni per non subire la concorrenza. Al di là delle ragioni degli uni e degli altri e della legittimità degli scioperi selvaggi, le esasperazioni dei tassisti erano più che comprensibili. Ma dopo le violenze, dopo le aggressioni continue ai guidatori di Uber, dopo le bombe carta e dopo la pubblicazione della foto del tassista che indossa un tirapugni, le ragioni della protesta passano in secondo piano, come scrive Sergio Rizzo in un corsivo pubblicato mercoledì scorso sul Corriere della Sera, che poi prosegue. Non importa chi fosse il signore che impugnava quel grazioso tirapugni cromato, di sicuro non un lavoratore preoccupato per il proprio posto di lavoro, e non ci stupiremmo se venisse fuori che le manifestazioni di martedì scorso rappresentavano per qualcuno solo il pretesto per scatenare violenze. Non sarebbe la prima volta che una manifestazione sfocia in fatti come quelli accaduti martedì in piazza a Roma. dove la tensione è alle stelle ormai da troppi giorni, come stanno a dimostrare le storie di intolleranza fra tassisti e autisti di Uber, che le cronache non smettono di registrare. Ma al di là dei singoli episodi, è indubbio che le modalità e il clima in cui si svolgono certe proteste rispecchia un imbarbarimento generale, un degrado a cui non è certo estraneo il cattivo esempio che purtroppo continua ad arrivare dalla nostra politica, dove i toni del confronto sono sempre più esasperati anche all'interno degli stessi partiti. E il livello delle violenze verbali supera talvolta l'immaginabile, con il fattivo contributo dei social e di certi dibattiti televisivi. In questo paese, che sembra sull'orlo di una crisi di nervi, all'insorgere di ogni minima difficoltà, verrebbe da dire: diamoci tutti una calmata. Il problema è che i primi a dover pronunciare queste parole sono gli stessi che occupano le stanze dei bottoni e che invece raramente, spesso per convenienze politiche, rinunciano a gettare benzina sul fuoco. Martedì l'ex sindaco Alemanno ha accusato il PD di ricorrere, per difendere i propri riti partitocratici, alle cariche della polizia contro ambulanti e tassisti, le categorie che lo sostennero apertamente nella vittoriosa campagna elettorale del 2008. Mentre la sindaca di Roma, Virginia Raggi, anche lei in debito elettorale con ambulanti e tassisti, era addirittura in piazza con i manifestanti, affermando la sua vibrante contrarietà a riforme calate dall'alto. Per quanto possa apparire singolare che un primo cittadino scelga di esporsi in questo modo, a fianco di una categoria che ha paralizzato per giorni la capitale d'Italia, non c'è un divieto per i sindaci a manifestare. Ma dopo quanto è successo, vorremmo sentire da entrambi ancora più forte ciò che Virginia Raggi ha già scritto a caldo su Twitter. E cioè che le controversie si affrontano civilmente con le parole, non con tirapugni e bombe carta, senza se e senza ma. E quello che avete ascoltato era il corsivo di Sergio Rizzo, La protesta è legittima, ma il tirapugni, dal Corriere della Sera del 22 febbraio. Negli Stati Uniti, le proteste contro Trump, organizzate lunedì scorso in occasione di quello che è stato ribattezzato come il Not My President Day, hanno rappresentato per alcuni leader islamici l'occasione per invocare una presunta giustizia e uguaglianza sotto la legge di Allah, come scrive Francesco Semprini, inviato a New York per La Stampa. A Times Square, Linda Sarsour, attivista di origini palestinesi, ha ricordato il decreto esecutivo col quale il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt predispose l'internamento dei giapponesi in campi di prigionia. Il passato che ritorna a bussare alla porta degli americani, secondo la donna, con i musulmani e le minoranze che rischiano di subire le stesse umiliazioni sotto Trump. Alle parole della Sarsour, leader della Arab American Association of New York, hanno fatto seguito appelli a una preghiera collettiva in nome di Allah Akbar, Dio è il più grande. A prendere parte alle litanie sono stati anche l'attrice Susan Sarandon e l'imprenditore miliardario Russell Simmons, i quali hanno ammonito sul rischio di un fascismo americano sotto Trump. Accanto a loro anche il governatore di New York, Andrew Cuomo. Allah Akbar è stato anche scandito a Detroit, quando sul palco della Joe Louis Arena è salito Louis Farrakhan, leader della Nazione dell'Islam. «Voglio sconfessare l'abuso degli ebrei che affermano di essere il popolo eletto da Dio», ha detto Farrakhan, attaccando anche i bianchi per l'oppressione che hanno esercitato in tanti secoli di storia. Il leader ha annunciato l'inizio di una nuova era in cui tutti gli esseri umani potranno godere di pace, libertà, giustizia ed eguaglianza sotto la legge di Allah. Queste le parole di Francesco Semprini nell'articolo «Preghiere e slogan, la sfida a Trump dell'Islam americano», dalla Stampa del 21 febbraio. Ma se negli Stati Uniti l'odio per Trump fa abbassare la guardia contro il terrorismo e spiana il terreno verso l'islamizzazione radicale, nel mondo islamico c'è invece chi invita i musulmani ad un approccio moderato verso la religione. Nel suo romanzo epistolare «Lettere a Nur, perché non mi sono accorto di nulla», pubblicato in Francia a fine ottobre, l'islamologo franco-marocchino Richard Benzin, considerato uno dei nuovi pensatori dell'Islam moderato, racconta la storia di un padre che scopre che sua figlia si è convertita all'Islam radicale ed è partita per Fallujah. Benzin pone una domanda che ricorre tra i genitori di figli partiti per Iraq e Siria. Hanno fatto tutto il possibile come famiglia, ma l'ideologia di ISIS è forte. L'unico modo per arginarla è, davanti a un'interpretazione letterale delle scritture islamiche, offrire una lettura anche storico-critica. Nell'Islam ciò è impossibile. Nei templi del sapere musulmano i testi islamici non sono oggetto di ricerca, come accade invece nelle facoltà europee per le sacre scritture cristiane ed ebraiche. In Europa questo approccio sta suscitando interesse pure in ambito musulmano, dice Benzin, che propone lo studio storico-critico dei testi islamici nel corso di seminari in Belgio. È necessario creare circoli di lettura per fornire una nuova costruzione del sapere. La sua non è una voce isolata. Non tutto è assoluto nel Corano, ha detto a Paris Match l'imam di Bordeaux, Tarek Oubrou. Se un approccio storico ai testi sacri è tabù in terra d'Islam, non significa che non esista un dibattito. I musulmani devono tornare a capire il testo religioso alla luce del contesto in cui vivono, scriveva a dicembre il docente libanese Habib Fayyad sul quotidiano As-Safir. E a luglio As-Sharq El-Awsat, giornale arabo edito a Londra, parlava di una riforma dell'istruzione religiosa. Il Marocco ha aggiornato i testi di insegnamento religioso pubblico e al Cairo Al-Azhar, prestigiosa istituzione sunnita, studia una riforma dell'istruzione religiosa per contrastare l'estremismo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rolla Scolari, Islamici di tutto il mondo, moderiamoci, da Panorama del 16 febbraio.